Questa mobilitazione in tutta Italia sabato 27 giugno è stata indetta dalle comunità palestinesi di Roma e Lazio. L'obiettivo principale è contro l'annunciata annessione dei territori palestinesi da parte di Israele. Saremo in piazza per dire no all'annessione illegale, ma anche no al regime di apartheid israeliano e per chiedere che vengano adottate misure concrete, incluse le sanzioni, contro le continue violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale da parte di Israele. Quindi anche a Bologna saremo in piazza Nettuno alle 17, per un presidio che è stato promosso da Donne in Nero Bologna, Pax Christi Bologna, Rete Corpi Civili di Pace, Coordinamento Campagna BDS Bologna, Universitari contro la parte israeliana e Assopace Palestina Bologna e dai palestinesi di Bologna. Questi ultimi giorni, in queste ultime settimane sono arrivati, come dire, diverse prese di posizione contro questo progetto di annessione. Da un lato lo stesso Tribunale Supremo israeliano ha detto di no, l'ONU ha detto di no, però insomma Netanyahu, d'accordo con gli Stati Uniti, sembra voler andare avanti lo stesso. Sì, ci sono state molte prese di posizione contro l'annessione. Quella cosa che tu citavi dell'Alta Corte Suprema israeliana è una sentenza che dice che sono illegali e non si possono annettere le colonie che sono state costruite su terre private palestinesi. In generale sì, c'è una condanna molto forte a livello internazionale dei piani di annessione. Ultimo avviene anche una presa di posizione di oltre 1000 parlamentari europei contro l'annessione. Però questa condanna ha senso solo se ci sono richieste di misure concrete che pongano fine all'impunità di Israele e alle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale. Cioè una condanna a parole del progetto di annessione senza misure concrete lascia un po' il tempo che trova. Infatti Israele ha potuto annettere nel passato già dei territori, pensiamo alle alture del Golan e Gerusalemme Est, conquistate con la guerra dei sei giorni del 67, che sono state annesse senza che ci fossero ripercussioni da parte della comunità internazionale. Ora, il fatto che ci siano queste condanne, queste prese di posizioni è molto importante, ma noi non sappiamo addirittura se Netanyahu veramente passerà ai fatti con l'annessione e che cosa annetterà. Ci sono rapporti che dicono che probabilmente annetterà solo le colonie che stanno collegate a Gerusalemme, Male Adumim, Pishgat Zev, Gilo, eccetera. Quindi una parte molto limitata di quello che era il piano iniziale. Questo tuttavia non deve fare in modo che queste minacce di sanzioni vengano meno, perché Israele di fatto ha già annesso quei territori, si tratta solo di una annessione formale a questo punto. Israele ha già pieno controllo di quelle aree su cui minaccia l'annessione. Credo che sia importante dire che questa annessione di fatto è già passibile di sanzioni. Israele già viola il diritto internazionale con un regime di colonizzazione, di occupazione militare e apartheid. L'annessione sarà solo un atto formale di una situazione che già di fatto i palestinesi vivono quotidianamente nei territori occupati e all'interno dello Stato di Israele, cioè una situazione di apartheid. La leva delle sanzioni è l'unica che rimane, anche perché come sappiamo ci sono oramai infinite risoluzioni dell'ONU che sono rimaste carta straccia, quindi anche come campagna BDS voi suggerite che ad esempio l'aspetto economico è quello che può far sentire meglio queste ragioni ad Israele. Sì, guarda, noi nell'appello con cui abbiamo lanciato insieme alle altre associazioni la manifestazione e il presidio qui a Bologna, ma anche come BDS Italia, abbiamo messo al centro delle nostre richieste quelle che sono le domande contenute in un appello firmato da decine di associazioni della società civile palestinese, che hanno chiesto semplicemente ai governi e alle istituzioni di fare quello che è previsto dal diritto internazionale. Gli stati hanno un obbligo, secondo il diritto internazionale, di cooperare per porre termine a gravi violazioni del diritto internazionale stesso, commesse da qualsiasi altro stato attraverso contromisure legali, incluse le sanzioni. Ora, questa cosa è stata fatta in molti casi nei confronti di molti paesi, come sappiamo anche in tempi recenti, ma mai contro Israele. Noi chiediamo semplicemente che Israele venga trattato come qualsiasi altro paese, che venga messo di fronte alle proprie responsabilità per le violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale che compie da decine di anni contro i palestinesi. Cosa hanno chiesto le associazioni della società civile palestinese? Primo, di mettere al bando il commercio di armi e la cooperazione nel settore militare e della sicurezza con Israele, sospendere gli accordi di libero scambio con Israele. Qua sappiamo che c'è un accordo di associazione tra Unione Europea e Israele, per esempio, che l'articolo 2 prevede l'interruzione, appunto, la sospensione di questo accordo nel caso di violazioni dei diritti umani. Mi sembra che sia abbastanza il caso da parte di Israele. Terzo, proibire qualsiasi commercio con le colonie illegali israeliane e assicurare che le aziende non facciano affari con le colonie illegali o terminino questi affari se ce li hanno già in corso. Ultimo punto, quarto punto, garantire che siano assicurati alla giustizia gli individui e le imprese responsabili di crimini di guerra e crimini contro l'umanità nel contesto del regime israeliano di occupazione illegale di apartheid, quindi le imprese che sono complici delle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale. Sono richieste sulle quali noi intendiamo andare avanti, sia che ci sia l'annessione nei termini in cui è stata profilata inizialmente da Israele, sia che non ci sia, perché Israele continua a violare i diritti umani e il diritto internazionale a prescindere da questo atto formale dell'annessione dei territori palestinesi occupati prevista dal 1 luglio.